Non mi chiedevo soltanto sono ancora in tempo, ma sono ancora in grado. La malattia, che facendomi come un rude direttore di coscienza morire al mondo, mi aveva favorito, perché se il seme, dopo essere stato messo nella terra, non muore, rimarrà solo, ma se muore, recherà molti frutti. La malattia dalla quale, dopo che l'indolenza m'aveva protetto contro la facilità, sarei stato forse protetto contro l'indolenza. La malattia aveva logorato le mie forze e, come avevo notato da tempo, soprattutto quando avevo smesso di amare Albertine, le forze della mia memoria. Ora la ricreazione tramite la memoria di impressioni che poi sarebbe stato necessario approfondire, chiarire, trasformare in equivalenti di intelligenza, non era forse una delle condizioni, quasi l'essenza stessa dell'opera d'arte quale l'avevo concepita poco fa nella biblioteca? Ah, se avessi avuto ancora le forze ancora intatte della sera che avevo evocata vedendo François Le Champy. Era quella sera, la sera dell'abdicazione di mia madre, che era cominciato insieme alla morte lenta della nonna, il declino della mia volontà, della mia salute. Tutto si era deciso nel momento in cui, non sopportando più d'aspettare l'indomani per posare le labbra sul viso di mia madre, avevo preso la mia risoluzione, ero saltato dal letto ed ero andato, in camicia da notte, a installarmi davanti alla finestra da cui entrava la luce della luna, finché non avessi sentito andar via il signor Swan. I miei genitori l'avevano accompagnato, avevo sentito il cancelletto del giardino aprirsi, suonare, richiudersi. Di colpo, allora, pensai che qualora avessi avuto ancora la forza di portare a compimento la mia opera, quel ricevimento che oggi stesso, come nel passato, a Combray certi giorni che avevano influito sulla mia vita, mi aveva dato al tempo stesso l'idea della mia opera e il timore di non poterla realizzare, sicuramente le avrebbe impresso innanzitutto la forma che avevo presentita una volta nella chiesa di Combray e che di solito ci rimane invisibile. Quella del tempo. Certo, ci sono molti altri errori dei nostri sensi. Diversi episodi della mia vita, lo si è visto, me l'avevano provato, che falsano ai nostri occhi l'aspetto reale di questo mondo. Ma a rigore avrei sempre potuto, nella trascrizione quanto più esatta possibile che mi sarei sforzato di dare, non cambiare di posto i suoni, astenermi dal distaccarli dalla loro causa, cui l'intelligenza li accosta a cose fatte, sebbene far cantare dolcemente la pioggia in mezzo alla stanza e far diluviare in cortile il bollore della nostra tisana, non dovrebbe essere tutto sommato più sconcertante di ciò che fanno tanto spesso i pittori quando dipingono, vicinissimo o lontanissimo da noi, a seconda di come ce li fanno apparire le leggi della prospettiva, l'intensità dei colori e la prima illusione dello sguardo, una vela o un picco che il ragionamento sposterà poi a distanze talvolta enormi. Avrei potuto, benché l'errore sia più grave, continuare a mettere, come si usa fare, dei tratti nel volto d'una passante, quando al posto del naso, delle gote e del mento non dovrebbe esserci che uno spazio vuoto, animato tutt'al più dal riflesso dei nostri desideri. E anche se non avessi avuto modo di preparare, cosa già assai più importante, le 100 maschere che conviene applicare a uno stesso viso, a seconda almeno degli occhi che lo vedono e del senso in cui ne leggono i tratti, e per gli stessi occhi, a seconda della speranza o del timore, o, al contrario, dell'amore e dell'abitudine che nascondono per 30 anni i cambiamenti dell'età, anche se, insomma, non mi fossi proposto, cosa di cui la mia relazione con Albertine bastava peraltro a dimostrarmi che è impossibile fare a meno, se non si vuole che tutto sia artificioso e menzognero, di rappresentare certe persone non al di fuori, ma al di dentro di noi, là dove un loro minimo gesto può provocare turbamenti mortali e di far variare altresì la luce del cielo morale a seconda delle differenze di pressione della nostra sensibilità, anche se non avessi introdotto questi e tanti altri cambiamenti, la cui necessità, se si vuole dipingere il reale, è potuta emergere nel corso di questo racconto. Nella trascrizione di un universo che era da ridisegnare per intero, perlomeno non avrei tralasciato di descrivervi l'uomo come un essere la cui lunghezza non è quella del suo corpo, ma quella dei suoi anni, e che è costretto, compito sempre più enorme e che finisce per sopraffarlo, a trascinarli con sé quando si muove. D'altronde, che noi occupiamo un posto in continua crescita nel tempo, tutti lo sentono, e questa universalità non poteva non rallegrarmi, poiché era la verità, sospettata da ciascuno, che io dovevo sforzarmi di chiarire. Non solo tutti sentono che occupiamo un posto nel tempo, ma questo posto, anche i più semplici sono in grado di misurarlo approssimativamente, così come misurerebbero quello che occupiamo nello spazio, dal momento che anche una persona non particolarmente perspicace, vedendo due uomini che non conosce, tutti e due con i baffi neri o tutti e due rasati, dice che sono due uomini, l'uno d'una ventina, l'altro d'una quarantina d'anni. Spesso ci si sbaglia, certo, in questa valutazione, ma il fatto stesso che si ritenga di poterla fare significa che si concepisce l'età come qualcosa di misurabile. Al secondo uomo con i baffi neri si sono effettivamente aggiunti 20 anni di più. Se era questa nozione del tempo incorporato, degli anni passati come non separati da noi, che io avevo ora intenzione di mettere così fortemente in rilievo, era perché in quello stesso momento, nel palazzo del principe di Germain, il rumore dei passi dei miei genitori che accompagnavano il signor Swan, il tintinnio saltellante, ferruginoso, instancabile, stridulo e fresco della campanella, annunciò che il signor Swan se n'era finalmente andato e che la mamma stava per salire, io li sentii ancora. Sentii proprio loro, pur situati così lungi nel passato. Allora, pensando a tutti gli avvenimenti che si collocavano per forza di cose fra l'istante in cui li avevo sentiti e il ricevimento Germain, mi fece spavento pensare che fosse proprio quella campanella a tintinnare ancora dentro di me, senza che io potessi cambiare nulla alle note stridule del suo sonaglio, visto che, non ricordando più bene come si spegnessero, per riapprenderlo, per ascoltarlo bene, dovetti sforzarmi di non sentire più il suono delle parole che le maschere si scambiavano attorno a me. Per cercare di sentirlo più da vicino, ero costretto a ridiscendere in me stesso. Quel tintinnio, dunque, era sempre stato lì. E così, fra lui e l'istante presente, tutto quel passato indefinitamente trascorso che non sapevo di portare con me. Quando la campanella aveva suonato, io esistevo già, e dopo, perché sentisse ancora quel tintinnio, bisognava che non ci fosse stata discontinuità, che nemmeno per un istante avessi cessato, mi fossi preso il riposo di non esistere, di non pensare, di non avere coscienza di me, già che quell'istante lontano stava ancora in me, Potevo ritrovarlo, tornare sino a lui solo scendendo più profondamente in me. Ed è perché contengono così le ore del passato che i corpi umani possono fare tanto male a chi li ama, perché contengono tanti ricordi di gioie e di desideri già cancellati per loro, ma tanto crudeli per chi contempla e prolunga nell'ordine del tempo il corpo adorato di cui è geloso, geloso fino a sperarne la distruzione. Infatti, dopo la morte, il tempo si ritira dal corpo e i ricordi, così indifferenti, così sbiaditi, sono cancellati da colei che non è più, e presto lo saranno, da colui che ancora torturano, ma nel quale finiranno col perire, quando il desiderio di un corpo vivo smetterà di alimentarli. Profonda Albertine, che io vedevo dormire e che era morta. Provavo un senso di stanchezza e di spavento a sentire che tutto quel tempo così lungo non solo era stato senza una sola interruzione, vissuto, pensato, segreto da me. Non solo era la mia vita, non solo era me stesso, ma anche che dovevo tenerlo ogni minuto attaccato a me, che mi faceva da sostegno, a me, che, appollaiato sulla sua sommità vertiginosa, non potevo muovermi senza spostarlo come potevo invece fare con lui. La data in cui sentivo il rumore della campanella del giardino di Combré, così lontana, eppure interiore, era un punto di riferimento in quella dimensione enorme che non sapevo di possedere. Avevo le vertigini, vedendo sotto di me, eppure in me, come se la mia altezza fosse di leghe, un tale numero d'anni. Adesso capivo perché il duca di Germain, di cui, guardandolo quando era seduto su una sedia, avevo ammirato quanto poco fosse invecchiato, sebbene avesse sotto di sé tanti anni più di quelli che avevo io, non appena si era alzato e si era sforzato di reggersi in piedi, aveva vacillato su due gambe mal ferme come quelle di quei vecchi arcivescovi che non hanno più nulla di solido tranne la loro croce di metallo e attorno ai quali s'affaccendano giovani seminaristi gagliardi, e non era poi riuscito ad avanzare che tremando come una foglia sulla poco praticabile cima dei suoi 83 anni, come se gli uomini fossero appollaiati su viventi trampoli che aumentano senza sosta, sino a diventare, a volte, più alti di campanili, sino a rendere difficili e perigliosi i loro passi, e da cui improvvisamente precipitano. Era per questo che il volto degli uomini d'una certa età era così impossibile confonderlo, anche per gli occhi dei più ignari, con quello d'un giovane, e non appariva che attraverso una sorta di nuvola di serietà. Mi spaventava che i miei fossero già così alti sotto i miei passi. Mi sembrava che non avrei avuto ancora a lungo la forza di tenere attaccato a me quel passato che scendeva già a tale lontananza. Se mi fosse stata lasciata quella forza per il tempo sufficiente a compiere la mia opera. Non avrei dunque mancato di descrivervi innanzitutto gli uomini, a costo di farli sembrare mostruosi, come esseri che occupano un posto così considerevole accanto a quello così angusto che è riservato loro nello spazio, un posto, al contrario, prolungato a dismisura, poiché toccano simultaneamente, come giganti immersi negli anni, periodi vissuti da loro a tanta distanza e fra cui tanti giorni si sono depositati nel tempo. Fine. Marcel Proust, Il tempo ritrovato, Alla ricerca del tempo perduto, settimo volume, letto da Tommaso Ragno, traduzione di Giovanni Raboni, regia Flavia Gentili, tecnici del suono Giovanni Montefusco, Ivan Novelli, Federico Slaviero, Stefano Cattaneo, studi di registrazione 24 gradi Recording Studio Roma, Stripe Recording Studio Milano. Montaggio Paola Fornasier. Una produzione Emons Audiolibri. Seguiteci su www.emonsedizioni.it e sui social network. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.